Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera e ben sintonizzate. Siamo di nuovo qui e a farci compagnia reciprocamente, speriamo bene, perché quest'anno alla fine di settembre siamo ritornate dopo le vacanze. Questa sera in studio siamo io e Caterina. Non ti ricordi come ti chiami? Io non mi ricordo, Caterina me lo ricordavo. Ottimo. E io sarei Lucilla. Ok. Sarei Lucilla. Dunque, questa è la nostra 168esima trasmissione. Sapete bene che i numeri delle trasmissioni le sa Caterina, io su quelli vado sempre nel pallone. Cioè, mi stai dicendo che posso dare i numeri? Sì, tu dai i numeri, okay. Benissimo. Le do benissimo. Benissimo. Allora, gli argomenti di questa trasmissione sono vari, vedrete in corso d'opera che appunto saranno diversi. Abbiamo raccolto dati in parte provenienti dalla stampa, nella fattispecie dal giornale Il Manifesto, e se ci sarà tempo vi leggeremo alcune chicchette proprio dal Manifesto, in parte da internet su segnalazione di Marisa, una nostra carissima amica che ringraziamo, e poi abbiamo fatto riflessioni sulle vacanze e su come passare il tempo libero ora, e quindi per esempio su quale film andare a vedere, come andare al cinema. E ci aspettiamo delle vostre considerazioni. Quindi vi ricordiamo che avete la possibilità di intervenire a questa trasmissione attraverso l'invio di SMS al nostro numero di cellulare che è 338-41-46-682. E data la varietà degli argomenti, perché toccheremo, lambiremo varie cose, forse un messaggio potrebbe essere troppo sintetico, e allora vi ricordiamo che potete scriverci all'indirizzo della nostra mail. Dai, fammi sentire. Caterina, contatti @clrbp.it. Madonna, se lo ricordo. Oppure potete scriverci presso, se vi piacciono le letterine di carta, presso il Centro Femminista Separatista, alla Casa Internazionale delle Donne, in via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma, e voi scrivete al CLR, cioè al Coordinamento Lesbiche Romane. Quindi poi dopo vi ricorderemo tutto quanto, il nostro sito, il sito di Onda Rossa, i numeri di telefono, eccetera eccetera, ma ve li ricorderemo dopo. Adesso però ci andiamo ad ascoltare un brano di un gruppo che abbiamo sentito, alcune di noi hanno avuto il piacere di sentire quest'estate. È un gruppo etnico, sono quattro vocalist che si chiamano Le Farawalla. Il CD si chiama Sind e il pezzo si chiama Popoff. Donna, donna, donna, donna, donna, don, don, don. Nella steppa sconfinata, don, don, don, a 40 sotto zero, se ne infischiano del gelo, don, don, i cosacchi dello zar. Col colbacco e gli stivali, camminando tutti in fila, la neve a mezza gamba, vanno verso il fiume, don, don, don, don, ma pop, pop, pop, sbuffa, sbuffa, pop, pop, e lì si affonda lo stivale, nella neve resta lì, che cosa, che gli stivali, ma non possono bastare, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Donna, donna, donna, donna, i cosacchi lunghi e fieri, con i baffi volti in su, nella neve vanno alteri, ma pop, pop, non c'è più, pop, pop, è rimasto senza fiato, sulla pancia comanciato, che cosacco sconfinato, questo povero come Dante. La la la la, così proprio non si può, non cammina in questo modo un cosacco dello za. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. I cosacchi sono stanchi, non si vede il fiume Don, con i baffi congelati, più non vogliono marciar mai. Nella steppa sconfinata, a 40 sotto zero, sono fermi in mezzo al gelo. Cosacchi dello zar, ma po po, così tutto che farà, rotolando nella neve fino al fiume arriverà. La la la, così tutto che farà, rotolando nella neve fino al fiume arriverà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Decisamente molto molto brave. Allora noi cominciamo subito con un contributo che ci ha gentilmente offerto Angela, e proprio perché è la prima trasmissione dopo le vacanze estive, chiaramente questo intervento parla di un'esperienza estiva. Allora, si intitola Notizie dal nostro mondo. 13-21 agosto 2005, effettuata la vacanza in masseria, regione Puglia, comune Monopoli, località Santa Lucia. Breve descrizione del luogo. La masseria si trova agli inizi della Valle dell'Itria. La struttura è bella e non priva di fascino. È stata usata anche come postazione di passaggio al momento della transumanza. Ha di fronte un magnifico bosco e anche in piena estate le notti sono rese ancora più gradevoli dal clima fresco. Occorrono poco più di 10 minuti per arrivare al mare e sono vicinissime anche località come Alberobello, Locorotondo, Martina Franca, Conversano, dove si può visitare il convento delle Badesse Mitrate. Insomma, la posizione geografica è davvero ottima per una vacanza che può esaudire i desideri più svariati. Mare, cultura, relax, nuovi incontri. Non avrete che l'imbarazzo della scelta. Come sapete, le Desiderande sono il gruppo barese che organizza l'evento ormai da 10 anni. E dunque le Desiderande sono da premiare non solo per la loro testarda ossessività, ma anche perché si sono fatte in quattro per esaudire i desideri delle ospiti, rendendo il soggiorno particolarmente gradevole. Le ospiti, da me opportunamente intervistate, si sono dette ampiamente soddisfatte. A pensarci bene, però, le Desiderande non solo si sono fatte in quattro, forse si sono fatte basta per mantenere il ritmo di lavoro assolutamente forsennato per tutti gli 8 giorni. Le ho osservate, infatti, esibirsi gioiosamente nella pulizia quotidiana di tutta la struttura, sia all'esterno che all'interno. Inoltre, hanno rispettato militarmente i turni al bar, alla cucina, ideato, gestito e arbitrato per 3 giorni consecutivi i belligosi pomeriggi delle lesbiadi, in cui si sono confrontate 4 squadre che hanno lottato per l'agognata vittoria finale. Si sono esibite dopo cena in esilaranti TG della masseria, che se lo vedi te ne scappi via. Hanno ballato spesso fino all'alba e provveduto a tutte le necessità delle ormai viziate ospiti. La mia memoria, stressata dal ricordo di tanta attività fisica, la loro naturalmente, si sofferma ora davvero nostalgica su di un particolare di un certo interesse: il cibo. La cucina ha rappresentato un luogo di vera delizia e non poteva essere diversamente, perché hanno cucinato 2 splendide dee, Lorena e Sabrina, coadiuvate fra le altre da 2 radiose baby butch, Tommy e Rosa, di cui conservo una magnifica foto che mi spiace di non potervi mostrare. Comunque, siamo state coccolate a partire dalla prima colazione: marmellate fatte da Lorena con la frutta raccolta in loco, crostate, ciambelloni fragranti, eccetera, eccetera, eccetera. Le cene, poi, sono state frugali. tutti ottimi e abbondanti i primi piatti, fra cui segnalo le orecchiette fatte in casa con sugo di pomodorini freschi e ricotta marzotica grattugiata, enormi grigliate di carne e di pesce, sorbetti, dolci e frutta a volontà. A pensarci bene, quei pasti frugali mi sono costati circa 3 kg in più, ma chi se ne frega. Le serate sono state allietate, oltre che dal citato TG della masseria, da balli e persino da danze particolari condotte da una vera maestra opportunamente reclutata in loco. La suddetta attività fisica terminava per le irriducibili solo all'alba, mentre chi scrive dormiva beatamente già da alcune ore. L'ultima sera, trascorsa insieme, è stata piena di sorprese. Ci ha salutato una spettacolare luna rossa che ha contribuito a rendermi ancora più malinconica per la separazione ormai imminente. E poi l'attrice Anna Garofalo ha interpretato un testo scritto da Giulia con il contributo di due vocalist d'eccezione del gruppo Farawalla che abbiamo appena ascoltato. Lo spettacolo è stato poetico e coinvolgente, una vera magia, di cui sono ancora debitrice a tutte coloro che lo hanno ideato e realizzato. Infine, si è levata verso il cielo una piccola ma intrepida mongolfiera, mentre già ardeva un enorme falò intorno al quale molte donne hanno ballato finalmente libere di essere streghe e guerriere, sognatrici e viandanti, felici di essersi rispecchiate l'una nello sguardo dell'altra per un'intera settimana. Grazie e arrivederci al prossimo Angela. Per non smentirci, ci abbiamo un problema con un CD che ve lo risputa perché si sta rompendo l'apparecchiatura. Adesso sentirete un momento di buco. Lucilla, da vera intrattenitrice, occuperà il tempo mentre io passo su quell'altro CD. Ok. Naturalmente, mi senti? Sì, sì. Ok, allora vado. Tra le altre notizie di cui vi vogliamo parlare, e dopo ve ne parleremo un pochino meglio. Ce n'è una che riguarda, che abbiamo tratto dal manifesto e che riguarda, sono storie appunto, e il titolo è interessantissimo perché è La casa abusiva del Signore e riguarda l'abusivismo edilizio fatto dalla Chiesa. Dopo non ve ne andate perché sarà importante poterlo sentire. Allora, questo brano che sto praticamente faticando a mettere è delle Kick la Luna? No, Bella Donna 9CH. Bella Madonna. Donna. Mi ha fatto pure questa sera la mia porca figura. E si intitola Le notti di Marsiglia. Se riusciamo ve lo facciamo pure sentire. Le nuit de Marseille. Ecco, no, io l'ho detto in italiano perché parlo, non la conosco la matematica. Va bene. Ok. Marseille mirage, Marseille rivage, Marseille ravage. Ok, allora ripartiamo e adesso andiamo invece al cinema. Per cui c'è questa recensione e sono delle considerazioni che ho fatto io. Sopravvivere, che è quindi recensione del film La bestia nel cuore di Cristina Comencini, 2005. Ne avrete sentito parlare sicuramente. Per chi non conoscesse ancora la sceneggiatura, il film racconta la storia di una sorella e un fratello abusati da bambini dal padre, connivente la madre. Racconta del dolore di due bambini, ormai adulti, che non possono dimenticare il baratro in cui sono caduti a causa di quello scippo tremendo che li ha privati dell'infanzia e contemporaneamente sbattuti con violenza nel mondo proprio da quella famiglia che li doveva proteggere. La famiglia che il cardinale Ruini si spertica a difendere come l'unico luogo sicuro e sano, dice il fulgido Ruini, legale e costituzionale, intendendo la famiglia. Certo, allo stesso modo difenderà a spada tratta anche tutti i preti pedofili che operano nell'ombra delle sordide sagrestie, avendo libero accesso a quell'infanzia che dicono di voler proteggere, così come tutelano l'istituzione familiare. Ma torniamo al film. Non ci sono parole per raccontarlo, tali e tante le emozioni che muove. Scritto da una donna, se ne avverte la profondità. Con delicatezza, al lato del filo conduttore, altre storie si intrecciano, altri temi si sviluppano. La diversità come valore, l'omosessualità, la disabilità, l'uso dei media e la cultura del consenso. Bella la scelta delle attrici e degli attori. Giovanna Mezzogiorno e Angela Finocchiaro hanno incarnato splendidamente ruoli di donne comuni e proprio per questo straordinarie. Non dirò altro del film, che vi invito ad andare a vedere, ma voglio tornare sul titolo. Le persone che sono state violate sopravvivono a quell'evento, è un dato reale, ma conservano per tutta la vita quella violazione che rimane inscritta nel corpo e che si incista nella mente, rinnovandosi quotidianamente. È un dolore che si può rimuovere in senso psicanalitico, ma che non si cancella. È un dolore indelebile. È così che Aisha Sadai Simmons, regista nera nordamericana, definisce le vittime dello stupro sopravvissute. È questo che ci ha raccontato un anno fa, quando l'abbiamo incontrata alla Casa Internazionale delle Donne. È questo che testimonia il suo documentario dal titolo No, rendere visibile l'invisibile. La voce di donne intervistate che si raccontano muovendo dalla rabbia, trauma, dolore fisico ed emotivo all'azione guarigione, dove coloro che hanno scelto di parlare e raccontare la propria storia, rompendo il silenzio a loro imposto da vittime, diventano sopravvissute e quindi educatrici, e quindi guerriere, e quindi guaritrici. Nella visione sessista, le donne e i bambini vengono percepiti come corpi senza identità e per questo accessibili sempre e comunque. Anzi, lo stupro è un sistema di controllo. L'effetto devastante si manifesta e si paga anche attraverso l'uso e la decodifica sessuata della lingua. Il no, il non lo so, l'aspetta, il forse diventano per i maschi automaticamente equivalenti linguistici del sì, eliminando ogni possibile diritto a ripensamento. I bambini non hanno statuto linguistico. L'atroce conseguenza di questo fatto è l'esperienza di violenza, di umiliazione, di sofferenza e di distruzione che vivono le donne con lo stupro e le molestie sessuali. Di fronte a questo strazio, le donne, ridotte a puro strumento sessuale dall'uomo, non hanno altra difesa che staccarsi dal proprio corpo durante la violenza e poi rinchiuderla nel silenzio e circondarla di sensi di colpa, facendo propria quell'idea di responsabilità che vuole la donna, secondo gli stereotipi più diffusi, causa della violenza stessa, perché provocatrice. Un'altra violenza si perpetua dunque sulla donna, di natura diversa, ma collegata a tutto quanto detto sino ad ora, fatta di aggressione verbale, linguistica e culturale. Come non pensare alle notizie e alle immagini terribili che hanno narrato gli stupri etnici perpetuati durante le tante guerre e che descrivono ancora una volta la donna come merce, mezzo per piegare o far pagare gli uomini o addirittura un intero popolo. I bambini non hanno statuto giuridico. E ancora, dall'analisi di Aisha, nel mondo donne e bambine, nonostante la razza, la cultura, l'etnicità, la religione, l'età, l'orientamento sessuale, la classe, l'abilità o l'inabilità fisica, sono stuprate, aggredite e molestate ogni singolo minuto di ogni singolo giorno. È in atto una silenziosa guerra all'interno della comunità nera. Lei riporta l'esperienza che l'ha condotta poi a produrre il film No, rendere visibile l'invisibile. Questa guerra è perpetuata dagli uomini neri nei confronti delle donne nere. Questa guerra è fatta di aggressioni e di stupri nei confronti delle donne nere. Fino a poco tempo fa questa guerra non era conosciuta pubblicamente all'interno della comunità nera perché non ritenuta importante. E allora diciamo, diamo qualche dato. Una donna su tre sarà violentata durante la sua vita. Il 94,5% delle vittime di stupro sono donne, rispetto al 5,5% degli uomini vittime di stupro. E l'84,8% delle vittime, sempre in percentuale, delle vittime di aggressione sessuale sono donne, rispetto al 15,2% degli uomini vittime di aggressione sessuale. Nonostante le donne nere siano il 7% della popolazione statunitense, risultano essere il 27% di vittime di stupro e di aggressioni sessuali. Le donne nere hanno più probabilità di essere stuprate rispetto alle donne bianche. E ancora, per ogni donna bianca che riporta la violenza subita, ci sono almeno 5 donne bianche che non la denunciano. Ma la guerra silenziosa di cui parla Aisha nell'ambito della comunità nera è una guerra in atto in tutto il mondo. Nessuna donna, bambina e bambino ne sono esclusi. Andate a vedere il film. E adesso è d'obbligo il prossimo brano delle Chicche la Luna, No Compromise. Yeah. Allora, vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto. È una trasmissione autogestita nell'ambito del martedì femminista e lesbico, tutto autogestito naturalmente, nell'ambito del 87-900 di Radio Onda Rossa. No, nell'ambito Sugli. Sugli, vabbè, nell'ambito Sugli, 87-900 di Radio Onda Rossa. E vi ricordiamo che se volete potete andare a consultare il sito di Radio Onda Rossa, che è www.ondarossa.info, e lì troverete un'icona in diretta e vi permette di ascoltare Radio Onda Rossa tramite il sito di Radio Onda Rossa. Oppure potete collegarvi con www.clrbp.it, anche lì c'è la solita icona in diretta dove potete ascoltarci, per esempio a noi in diretta. E poi potete andare a vedere il sito per vedere tutte le iniziative che facciamo, le future ma anche le passate, per esempio quella della settimana scorsa di sabato, dove è stata la carica delle 101. Abbiamo avuto ben 101 ingressi all'iniziativa 2 Danze di Donne, dove si sono esibite quattro artiste, flamenco e danza orientale. E vi aspettiamo per la prossima iniziativa, che vi diremo dopo in seguito. Se volete telefonarci qui in radio tutti i martedì dalle 21 alle 22, 06 49 49 17 50. Se mi volete... stai stupendo, ti ricordi tutto, Lucia? Sto leggendo. Ah, ecco, c'è il se tutto. Volete contattarci telefonicamente ogni mercoledì dalle 20:30 in poi fino verso le 23, sì, più o meno, più o meno, allo 06 68 64 201 del Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales 1A, oppure potete scriverci a clrbp.it. No, ho sbagliato. clrbp@ ecco, clrbp@, non me lo ricordo più, mi stai confondendo le idee. Sto confondendo le idee. Sì, contatti, ecco, clrbp.it. Volevo vedere se era preparata, non è preparata. Il gruppo naturalmente è aperto, ogni mercoledì ci riuniamo per le varie iniziative, per la riunione redazionale, e tutti i vostri contributi per iscritto, per telefono, sono ben accettati, anche di persona, anzi ancora più graditi. Io sto aspettando Gianna, dico solo questo. Vuoi leggere quello? Sì, è arrivato un messaggio molto carino da una nuova ascoltatrice, perché non avevamo memorizzato il numero, lo leggo così. Allora, da non perdere assolutamente, anche viva Zapatero, e speriamo che risvegli qualche coscienza in più. Ciao, ma non si è firmata, quindi la chiameremo Lady X, Lady X. Oppure Lady Zapatera. Lady Zapatera. Ne è arrivato un altro in questo momento, che è di Sabina, che dice: bentornate cari, alla prossima ci sarò anch'io. Sabina ha deciso di venirci a trovare, siamo tutte molto contente. È vero, se volete venire anche qui il martedì per stare con noi, vedere come facciamo la trasmissione, anche la redazione della radio qui è, no, la redazione, scusate, la radio è aperta, potete comunque venire a trovarci. Potete venire a trovarci, potete vederci, oltre che ascoltare le nostre voci, potete partecipare, certo, non soltanto al martedì femminista e lesbico, non soltanto a Una Calamità, ma a conoscere anche questo spazio libero, che è lo spazio di Radio Onda Rossa. Uno degli ultimi che è rimasto. E teniamocelo caro. Stretto, stretto. Allora, avete ascoltato il pezzo di Kick la Luna, come abbiamo detto, adesso procede Caterina. Sì, ci è arrivato un comunicato dell'Udi Nazionale sulla RU486, un'altra anomalia italiana. Io mi scuso fin da adesso se farfuglierò poco bene questo scritto, ma veramente ho un problema con gli occhiali e sto facendo una fatica incredibile a leggere, quindi vogliate scusarmi. Allora, cercherò di fare meno errori possibili. Il ministro Storace, dopo aver dichiarato di non sapere nulla della sperimentazione di aborto farmacologico a Torino, pur avvisato che la richiesta della regione Piemonte era stata accolta già da alcuni anni e che il Sant'Anna, dopo un'estenuante attesa, finalmente aveva potuto avviare la procedura, con un tempismo sorprendente in pochi giorni ha attivato un'ispezione e scovato le presunte irregolarità procedurali, bloccando la sperimentazione della pillola RU486. Sperimentazione autorizzata dopo 2 anni di peripezie dallo stesso ministero e dagli stessi ispettori che oggi cambiano idea in piena sintonia con la parte più conservatrice della gerarchia ecclesiale, che ha già opposto il suo veto come ieri aveva fatto con i Pax. Come l'altro ieri per il referendum abrogativo di alcuni sordidi articoli della legge 40. Chiediamo ai media, opinionisti, femministe pentite, politici in procinto di fare coalizioni e programmi che poi dovremmo votare alle prossime elezioni, di prendere atto che fra le anomalie italiane, conflitto di interessi in settori vitali della vita pubblica, laicità dello Stato barattata per un piatto di lenticchie, controllori e controllati in sodalizio come il gatto e la volpe, eccetera, eccetera, c'è, gravissima, la deroga alle garanzie di salute ed integrità del corpo delle donne, come si è già visto con la legge 40. Il presidente della Regione Piemonte, intervistata, ha detto che il ministro dovrebbe vergognarsi, affermazione chiaramente censurata dal telegiornale. Forse la presidente Bresso ha aggiunto altro, ma ciò che ha detto è importante e coraggioso visto il silenzio assordante che ha accompagnato in questi anni la scandalosa questione della RU486. La legge 194 prevede espressamente che l'interruzione di gravidanza possa essere fatta con tecniche diverse rispetto all'intervento chirurgico. In molte nazioni europee il farmaco, di cui il ministro parla come di una nuova diavoleria, oscura e pericolosa, è in commercio e in uso dagli anni 90 nelle strutture pubbliche e private. Per annacquare la dimensione politica della decisione presa dal ministro Storace, incominciano le rituali dichiarazioni sull'aspetto speculativo della sperimentazione. Le valutazioni tecniche e scientifiche di 2 anni di controlli cedono il passo al sospetto che si tratterebbe del solito business della casa farmaceutica produttrice. Lo sappiamo, l'etica economica e sociale spunta sempre quando fa comodo e, a questo punto ci chiediamo, a quando inchieste sulla pericolosità della pillola antifecondativa? Le donne italiane, o che vivono in Italia, o che solo non hanno i canali giusti, magari qualche farmacia svizzera, rimane solo la sala operatoria. Niente scelta informata, niente discussione. Da anni questo argomento è tabù. Nessuno vuole occuparsene perché è politicamente rischioso. Some people call me the space cowboy. In questo paese dalla libertà condizionata, con il Parlamento che balbetta e la CEI che tuona, sentimento religioso vero, profondo e libero, se ci sei batti un colpo, le donne dell'UDI, che non hanno mai nemmeno per sbaglio definito l'aborto una conquista, ma che proprio perché l'aborto è un dramma, è una sconfitta, hanno chiesto e difeso una legge che lo togliesse dalla clandestinità e fornisse strumenti per vincerlo, cercando medici, direttori sanitari, amministratori e politici coraggiosi, che esprimano innanzitutto e ad alta voce solidarietà ai loro colleghi e colleghe di Torino, che moltiplichino le richieste di sperimentazione fino a che il ministro non abbia più ispettori da mandare. Può darsi allora che si accorga che in mezza Italia mancano i consultori e che manca, a partire dal suo governo, una cultura di solidarietà vera verso la maternità, quella che certamente non possono avere i disprezzatori del corpo materno. Noi intanto diamo tutta la nostra solidarietà alle donne, quelle di Torino, spiate e disorientate, e alle altre, noi tutte, che non possono neppure scegliere. Come diceva Don Abbondio, il coraggio uno non se lo può dare, altrettanto però si può dire della nostra stima e anche del nostro voto. Coordinamento Nazionale dell'UDI. E E questo era il comunicato dal titolo Un'altra anomalia italiana che ci ha mandato la sede nazionale dell'UDI. Io poi ho dimenticato a casa e chiedo venia, veramente chiedo proprio scusa. C'era un anniversario che festeggiano le donne dell'UDI per sabato 1° ottobre. E alla loro sede, che è l'Unione Donne Italiane, via dell'Arco di Parma 15, 00186 Roma. Comunque, per ulteriori informazioni relative a questa iniziativa che faranno il 1° di ottobre, vediamo il loro numero di telefono, che è 0668 65884. Una cosa che vi vogliamo ricordare è che le donne dell'UDI, e l'UDI era presente già nella Resistenza. Esatto. E quindi ricordate che l'UDI, l'Unione Donne Italiane, è una struttura di donne famosa, che c'è stata nel tempo, che ancora ora c'è, che ha avuto la capacità di rinnovarsi. Noi abbiamo avuto ospite più di una volta Pina Nuzzo e siamo ben felici di invitarvi a seguire questa iniziativa per il giorno 1° di ottobre. Sì. Adesso ascoltiamo, mi sono distratto un attimo, ascoltiamo un brano musicale, si intitola I Love You ed è cantata da Nina Simone. Allora, abbiamo ancora tantissime cose da dirvi. Intanto vi invitiamo per la nostra prossima iniziativa, che sarà di venerdì stavolta e sarà il 7 di ottobre. sempre alla Casa Internazionale delle Donne, stavolta dalla nostra parte, come diciamo noi, cioè al Centro Femminista Separatista, quindi probabilmente nel salone. E presenteremo un libro insieme alla libreria Zora, e noi come centro femminista, come coordinamento lesbiche italiane e come coordinamento lesbiche romane, come collegamento lesbiche italiane. Te sei sbagliata, mi sto ambicciando. E il libro, non vi diremo altro, per cui venite, però il libro si intitola Non dire il mio nome. Poi altre iniziative ci saranno. Sarà presente l'autrice, no? Sì, che è una di quelle che ha collaborato alla realizzazione del libro di Delia Vaccarello, sbaglio? Cioè del libro curato da Delia Vaccarello, Principesse Azzurre 3. Poi comunque abbiamo in cantiere altre cose che piano piano vi diremo. Ma intanto un'altra chicchetta arriva dai PAX, e cioè dalle unioni di fatto e statistiche ufficiali. Preso la notizia da Il Foglietto dell'USI RDB, la ricerca è del 29/2005, numero 32. Voi potete andare al sito www.ilfoglietto.it. Allora, la notizia è PAX, unioni di fatto e statistiche ufficiali. Lo sapevate che mentre si infiamma il dibattito sui PACS, cioè quelli famosi detti patti civili di solidarietà, e sulle unioni di fatto, un altro capitolo sul censimento della popolazione è diventato oggetto di polemica in Parlamento? Allora, sul foglietto numero 2905 si accennava al fatto che l'Istat avesse reso inutilizzabili i dati sulle coppie gay, definendole incongrue. Ora, badate bene, a noi ci tocca difendere le coppie gay non essendo favorevoli al matrimonio. Ma quando è troppo è troppo. Su questo aspetto, a gennaio 2004, sia il deputato Grillini dei DS ed altri presentarono una interrogazione, la quale dette riscontro il sottosegretario Ventucci di Forza Italia. La querelle oggi torna di attualità e appare utile riproporla. Se fossimo in una vignetta di Toffer, umorista svizzero di lingua francese, scusate che ha scritto piccolo come che, dai risvolti surreal tragici e improbabili scarti temporali, tutto sembrerebbe più convincente e credibile di quella che invece è stata la realtà. In breve, secondo gli interroganti, l'Istat dichiarò che sarebbe stata rilevata la situazione esistente così come le persone avrebbero voluto presentarla. Quindi, se due ragazzi, maschi o femmine, vivevano insieme solo come amici e formavano due famiglie distinte, avrebbero dovuto riempire due fogli. Al contrario, in una situazione affettiva differente, avrebbero dovuto riempire congiuntamente lo stesso foglio. E proseguiva affermando che non sarebbero state fatte ipotesi a priori, né sarebbero stati dati giudizi di valore sulla struttura della famiglia in Italia. Nel formulario era previsto in un apposito settore l'opzione 03, convivente dell'intestatario, corrispondente alla sezione 2 del foglio di famiglia. Al lato dello spoglio dei modelli, però, la situazione in cui due persone dello stesso sesso si dichiaravano conviventi è stato ritenuto incongruo ed il codice 03 è stato corretto in 16, altra persona convivente senza legami di parentela, nel quale vengono inserite ad esempio le badanti. Dai risultati censiti, emerge che 468.000 persone, evidentemente eterosessuali, vivono in regime di convivenza e formano coppie di fatto con figli. Senza figli sono state invece rilevate 276.000 coppie. 1 milione circa di persone eterosessuali vivono quindi in regime di convivenza. In disparte, la circostanza che rispetto alle convivenze omosessuali sia il Consiglio d'Europa che la Corte Europea dei Diritti Umani vietano ogni tipo di discriminazione, c'è da notare che il dizionario etimologico minore del Cortellazzo fa risalire l'aggettivo incongruo al Pacioli, che lo definì in questi termini: due punti, aperte virgolette, incongruo, cioè che non è proporzionato né conveniente. Per traslato si può affermare che per l'Istat non è stato conveniente rilevare le coppie di fatto dello stesso sesso. Eppure l'esistenza dell'Istat risiede anche nel fatto che deve produrre proprio statistiche non convenienti. Infatti, tra i suoi fini vi è senz'altro quella di fornire alla collettività dati seri, democratici e imparziali. Della collettività fanno parte anche le coppie di fatto dello stesso sesso, che contribuiscono al mantenimento della statistica pubblica. Poi, se una parte della dirigenza dell'Istat è da ritenersi congrua e quindi conveniente a qualcuno o a qualcosa, si deve giungere all'amara conclusione che con la statistica pubblica non hanno proprio nulla a che fare. Alla santé, che vuol dire alla salute? Beviamoci sopra. Sì, ascoltiamo pure un brano che c'è proprio Peace of My Heart. Di Pezzi Janis... del mio cuore, Janis Joplin, aiutaci tu. Allora, mi sa che ci tocca salutarvi e vi dirò, e vi dirò soltanto che per quello che riguarda l'abusivismo ecclesiastico, la notizia è del manifesto di domenica 18 settembre 2005, molto interessante. Nel Parco Nazionale degli Abruzzi costruiscono chiese che per il concordato non si possono abbattere in maniera abusiva, e così stanno facendo a Ponza. Aiuto, la chiesa ci circonda. E sulla splendida voce di Janis Joplin, il coordinamento lesbiche romane, ed è una trasmissione, ed è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, vi dà appuntamento con la replica di questa trasmissione a martedì prossimo 4 ottobre. Ciao a tutte e buon proseguimento di serata da Lucilla e da Caterina. Baci, ciao ciao. Get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on.